Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e continuiamo il nostro viaggio sul Brasile per dare un bel benvenuto al nostro Mendo che non c'è più, o no, per star vicino al nostro Mendo che non c'è più. Noi parliamo di Brasile, parliamo della passione dei brasiliani, della spiaggia, della playa, stavo dicendo una cosa brutta. Vabbè, del calcio oggi, questa settimana parleremo di calcio. Questa sera io vi voglio parlare di calcio, che è l'ultimo argomento da toccare su con i brasiliani. Perché dopo Dio, la spiaggia, i muscoli e la bellezza delle loro donne, i brasiliani amano il calcio, che è quasi una religione in Brasile. I ragazzini, come si sa, in Meninos de Rua giocano a il football nelle strade, per strada, e lì nascono i campioni che poi vanno a solcare i terreni, prima in Brasile, in Sud America e poi nei campionati europei. Questo è un po' il caso del mio idolo di quando ero piccolino, di quando avevo 6-7 anni, che mi ha accompagnato, diciamo, dal 1997 fino a pochi anni fa, e Luis de Lima Nazario Ronaldo, forse uno dei calciatori più forti di sempre, almeno il mio parere il più forte di sempre, poi uno dei bomber a livello oggettivo più forti che ci siano mai stati, che ha vinto due mondiali, ha vinto campionati, poco per quanto meritava il suo talento, diciamo così. In ogni caso è stato ricordato da tutti, sia da chi delle squadre che l'hanno avuto, dai tifosi che hanno avuto il piacere di osservarlo, come l'Inter, il Milan, il Real Madrid, il Barcellona, il PSV, il Cruzeiro, ma anche da quelle squadre che ce l'hanno avuto contro, perché diciamo che era uno che inventava, un artista, inventava le cose dal nulla, e il suo nome, diciamo, in quegli anni è risuonato un po' in tutte le case. Mi ricordo nel 98 la pubblicità dove lui correva e camminava e diventava quasi le gomme della macchina da Pirelli, e i mondiali in Francia nel 98 dove giocava senza il ginocchio eppure è stato capocannoniere. Nel 2002 a capocannoniere ha vinto il mondiale, quindi diciamo un vero talento che è stato celebrato anche musicalmente da tantissimi autori. Il più famoso è Sergio Mendes, che in questa versione che vi ripropongo con i Black Eyed Peas, la canzone la conoscete tutti perché è Más Que Nada, e vi lascio all'ascolto per poi ritornare a parlare del fenomeno e un po' del calcio. E lo faremo come al solito attraverso la poesia. Ora Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas per Más Que Nada. Buon ascolto, a tra poco e forza Brasil. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh. pressure. And we won't stop until we get ya, till we get ya, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Ora volevo tornare a raccontare un po' di questo Brasile, di queste passioni per di queste passioni brasiliane attraverso quello che vi dicevo, un po' quello che facciamo qui con Allineamenti, ovvero le letture. E quando si parla di calcio non si può parlare se non di Nick, perché con il suo libro della Febbra 90, diciamo, ci siamo divertiti tutti a ascoltare le sue storie con l'Arsenal, Nick Hornby naturalmente. E che cos'è un tifoso di calcio? Lui dice: non è facile diventare un tifoso di calcio, ci vogliono anni, ma se ti applichi ore e ore entri a far parte di una nuova famiglia. Solo che in queste famiglie tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Non c'è niente di infantile in essere un tifoso di calcio. Perché il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato troppe volte per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose. Ho preso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto, ma non lo so, forse è qualcosa che non può capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine, stai 2-1 in una semifinale, ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, tirate per la speranza, tirate per la tensione, tutti completamente persi, senza nient'altro nella testa. Poi il fischio dell'arbitro e tutti. Che impazziscono in quei minuti, che seguono. Tu sei al centro del mondo, il fatto è che per te è così importante. È che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo, come e quanto i giocatori. E se non ci fossi stato tu, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. E se perdi la finale di Coppa di Maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno di gennaio. E che male c'è in tutto questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Ecco, qua vediamo la visione macabra del calcio, la visione europea, se non quella brasiliana. Perché devo dirvi, proprio sinceramente, mi sono un po' documentato, non sono riuscito a trovare grandi poesie brasiliane sul calcio. Quindi sono partito un po' da quello che è il classicone della letteratura sul pallone, Febbra 90 di Nick Hornby. E ora volevo leggervi un'altra poesia che devo dirvi sinceramente non è un capolavoro, però è italiana, probabilmente l'avete letta anche a scuola. Si chiama Gol di Umberto Saba ed è l'inizio del calcio per come l'abbiamo vissuto in Italia, quindi negli anni 20, anni 30, quando l'Inter si chiamava ancora Ambrosiana, ma iniziava a far sognare i propri tifosi, lo dico perché sono interista. E la magia del calcio è proprio quando avviene il gol. Quando avviene il gol, Ronaldo ne sapeva far tanti, la squadra esulta. Sentiamo. Il portiere caduto alla difesa, ultimo vana, contro terra cela la faccia, a non veder la mara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi. La folla, unita ebbrezza, par trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno e al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo sono belli, e quanto l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, quell'altro, è rimasto. Ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anche io son parte. È vero, i brasiliani non considerano spesso il portiere, che è di solito il ruolo dove hanno avuto più difficoltà, se non negli ultimi anni, grazie a Julio Cesar e ad Allison. Ma c'è anche questa storia del portiere, che quando la sua squadra segna, tutti i giocatori vanno ad esultare con quello che ha fatto gol e lo abbracciano, mentre il portiere si ritrova da solo, ancora a marcare la sua porta imbattuta, e con l'anima va a festeggiare i suoi compagni. Diciamo, quello che fa gol è quello che trascina il popolo, quel Ronaldo che quando vince i mondiali del 2002 fa felice l'intera nazione, ha il contraltare di quel portiere che non subisce mai gol. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento la settimana prossima. Buonanotte a tutti e questa è una buonanotte allineamenti. Ciao Radio Como, questo ragazzo. Ciao ciao ciao ciao. Qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.